Mi vuoi lasciare e tu vuoi fuggire, ma solo al buio tu poi mi chiamerai. Cullare, cullare, posandoti su un'onda del mare, legandoti a un granello di sabbia, così tu nella nebbia più fuggir non potrai, e accanto a me tu resterai, ai, ai, ai, ai. Ti voglio tenere, tenere, legata con un raggio di sole, così col suo calore la nebbia svanirà e il tuo cuore riscaldarsi potrà e mai più freddo sentirà. Ma tu, tu fuggirai e nella notte ti perderai. E sola, sola, sola nel buio mi chiamerai. Ti voglio cullare, cullare, posandoti su un'onda del mare, legandoti a un granello di sabbia, così tu nella nebbia più fuggir non potrai. E accanto a me tu resterai. Tenere, tenere, legata con un raggio di sole, così col suo calore la nebbia svanirà e il tuo cuore riscaldarsi potrà e mai più freddo sentirà. Ma tu, tu fuggirai e nella notte ti perderai e sola, sola, sola nel buio mi chiamerai. Ti voglio cullare, cullare, posandoti su un'onda del mare, legandoti a un granello di sabbia, così tu nella nebbia più fuggir non potrai e accanto a me tu resterai. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Guarda come dondolo con il bis, con le gambe ad angolo, con le gambe ad angolo fallo il bis. Sarà perché io dondolo, saranno gli occhi tuoi che brillano, ma vedo mille, mille, mille lucciole venirmi contro insieme, insieme a te. Guarda come dondolo con il bis. Con le gambe ad angolo, con le gambe ad angolo, ballo il bis. Le ginocchia scendono, le mie gambe tremano, forse sono brividi, brividi d'amore. Guarda come dondolo con il bis.

stanco a letto, presto se ne va, non ce la fa più, non ce la fa più. La notte adesso scende con le sue mani fredde su di me, ma che freddo fa, ma che freddo fa. Basterebbe una carezza per un cuore di ragazza, forse allora sì. T'amerei. Cos'è la vita senza l'amore? È solo un albero che foglie non ha più. E senza il vento, un vento freddo, dove le prende le speranze più giù. Ma questa vita cos'è? Se manchi. Sento una farfalla che sui fiori non vola più, non vola più, non vola più. Sono bruciata al fuoco del tuo grande amore che si è spento già, ma che freddo fa, ma che freddo fa. Tu ragazzo mai delusa, hai rubato dal mio viso quel sorriso che tornerà. Sono io l'ultimo romantico, sono io quello che ti può donare un fiore e capire da questo, dall'espressione del viso, dal tremore di una mano, se mi ami. L'ultimo, l'ultimo romantico di un mondo che si può commuovere guardando due colombi baciarsi su una piazza, incuranti della gente che li può calpestare per la fretta di arrivare. Perché se una rosa è una rosa, da quando c'è il mondo io devo cambiare. Perché se il mare è il cielo, il sole ed il vento non cambiano mai. Perché se l'amore è l'amore, da quando c'è il mondo io devo cambiare. Tante cose che stanno cambiando, l'amore non può. L'ultimo, l'ultimo romantico di un mondo che si può commuovere guardando due ragazzi baciarsi su una piazza, incuranti della gente, come facciamo adesso, come facciamo noi due. Perché se una rosa è una rosa, da quando c'è il mondo io devo cambiare. Perché se il mare ed il cielo, il sole ed il vento non cambiano mai. Perché se l'amore è l'amore, da quando c'è il mondo io devo cambiare. Perché ci son già tante cose che stanno cambiando, l'amore non può. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Credo al destino, per girar come fossi una bambola, e poi mi butti giù come fossi una bambola. Non ti accorgi quando piango, quando sono triste e stanca, tu pensi solo per te. No ragazzo no, no ragazzo no, per mio amore non riderei. Non ci gioco più, quando giochi tu sai far male da piangere. Da stasera la mia vita nelle mani di un non la metterò più. No ragazzo no, tu non mi metterai tra le 10 bambole che non ti piacciono più. Oh no, oh no. Tu mi fai girare, tu mi fai girare come fossi una bambola, poi mi butti giù come fossi una bambola. Non ti accorgi quando piango, quando sarà triste e stanca, pensi solo. Il mio mondo era un deserto di silenzio. come poco, forse niente, ma hai saputo amare tu. Tu che ora, ora mi insegni come non si ama più. Ti regalo gli occhi miei, forse niente. Quanto, quanto ora mi costa non averti amato poco, come poco, forse niente, ma hai saputo amare tu. Ti regalo gli occhi miei, i capelli, la mia bocca, le mie mani, il mio respiro, la mia vita ti regalo. Poco, forse niente, ti regalo gli occhi miei, i capelli, la mia bocca, le mie mani, il mio respiro, la mia vita. Nota la diferencia, es Radio Acupé, la mejor música para usted. Son degno di te, non ti merito più, ma al mondo no, non esiste nessuno che non ha sbagliato una volta, e va bene così, me ne vado da te. Ma quando la sera tu resterai sola, ricorda qualcuno che amava te. Sui monti di pietra può nascere un fiore, in me questa sera è nato l'amore per te. E va bene così, me ne vado da te. Ma al mondo no, non esiste nessuno che non ha sbagliato una volta, amore. Ti merito più, ma quando la sera tu resterai sola, ricorda qualcuno che amava te. Amore, amore. Stanotte amore non ho più pensato a te. Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me. E intorno a me girava il mondo come sempre. Gira il mondo, gira nello spazio senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e col dolore della gente come me. Un mondo soltanto adesso io ti guardo, nel tuo silenzio io mi perdo e sono niente accanto a te. Sempre il giorno ed il giorno verrà. Oh mondo, cerco un re di denari, io cerco un fante di cuori. Sai la mia reggia dov'è? Sotto le stelle con te. A chi mi offre denari io gli rispondo picche. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. sulla piaccia, con dentro una piaccia. No, l'avranno visto come ando, con te sulla piaccia, con te sulla spiaggia non ci sto. Passeggi sotto il sole, poi tutta la spiaggia, poi tutta la spiaggia. Sì, si monta e se ne muore, poi tutta la spiaggia, poi tutta la spiaggia, guarda te. Tu lo sai, tu lo sai, non sono mai geloso mai. Tu lo sai, tu lo sai, per tutti gli altri mesi mai, ma quando sono con te son geloso di te. Se ti vedo io ruotare, fai tutta la spiaggia, fai tutta la spiaggia. Sì, si buttano nel mare, fai tutta la spiaggia, fai tutta la spiaggia, guarda te. Sai, non sono mai geloso mai, tu lo sai, per tutti gli altri mesi mai, ma quando sono con te, son geloso di te. Sulla spiaggia, con te sulla spiaggia. No, l'avranno visto come ando, con te sulla spiaggia, con te sulla spiaggia non ci sto.